Sai cosa mi piacerebbe un sacco? Che cominciasse una puntata di Sessioni Notturne. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario, schiaccia play e segui la diretta. Culla da stanco, è una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara due minchia. La giusta. Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla culla e sulla. Ma la culla no. Buon pomeriggio e bentornati alla terza puntata di Sessioni Notturne. Siamo sempre qua. Ciao a tutti. Aspetta, qua è sopra una sbarra. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti di nuovo su Radio Wombat. Benvenuti con Mars e Vito. Ciao. Siamo sempre noi, siamo sempre qua. Allora, prepariamoci a questo meraviglioso viaggio della puntata di oggi. Dopo le puntate molto didascaliche, le prime puntate che abbiamo fatto, che erano io mi scuso per la voce, ma purtroppo il raffreddore primaverile non aiuta. Dopo le puntate, dicevo, didascaliche, schematiche, delle ultime volte abbiamo deciso di trovare un tema un pochino più... Un tema diverso. Coinvolgente, ecco. Così, tanto per rendere la puntata leggermente meno schematica, ma comunque resta schematica perché siamo pigri per preparare una puntata più lunga. No, è che ci piace molto spiegarvi le cose per bene. Perché io non sto tanto bene sti giorni, quindi non ce lo vogliamo, neanche lei. Ma non è vero. Io non sto bene. No, insomma, abbiamo deciso... Il resto della puntata sarà diamo un motivo, capito? Una motivazione al nostro nome, no? Siccome comunque il nome della nostra puntata è Sessioni Notturne. Il programma. Sì, del programma, scusa. Il nome del programma è Sessioni Notturne. Eppure andiamo in onda il pomeriggio alle 4:30. Avevo detto, scegliamo un nome diverso, tipo, cioè, sessioni pomeridiane. No, a me piaceva un sacco, però abbiamo deciso comunque di incentrare questa... Merenda da Tiffany. Di incentrare questa puntata proprio su questo tema qui, sulla notte. La notte. Su che cosa succede la notte, sulle sessioni notturne. Sì, ma la notte non inteso soltanto come notte. Non solo come notte, anche argomento come mood notte. Come mo. Sì, esatto. Abbiamo scelto una serie di pezzi con un mood molto notturno, molto scuro. Anche perché devo giustificarmi, dei pezzi che ho scelto io non parlano di notte, voleva toglierli. Sì, sì. Però hanno un mood notturno, quindi lo voglio dire apertamente a tutto il mondo. Vi passiamo subito il primo pezzo e poi ve lo raccontiamo. Quindi il primo pezzo abbiamo detto, aspetta, non me lo dire. Ma qua. Questa febbre ci rallenta un po' a tutti. Non l'avevo messo. Ok. Ok, allora vi diciamo dopo di chi è? Sì, vi raccontiamo tutto dopo. Ciao. Amongst the youngsters, never hung with no punks since 8th grade, make way, never faking the funk. My crew wasn't deep, but quality wise was large back then. We wasn't humble, we were trying to be stars, but couldn't reach them. I was kinda short, but I could speak, and they could never mind the height. I sounded big up on the sequence. Don't mistake me for a rapper jocking your late beats. It's been straight heat since I was in school on 188th Street. Was a beast with the pen, for the least of my friends. My job is to ensure the rap means me with the ends. Despite the storm, I just write record till the hype is more. What's between the stellar guy and terrified? What am I fighting for? I'm certified. Ripping apart my shirt and tie, have limited bars for certain. I have determined I am like Simba. I deal with scars trying to hurt my pride. Look how I've grown, do it all on my own as I verbalize. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown, let's just take a look back, look back. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown when I'm up on the track. You ain't alone, said you never look back. But I was wrong, let's just take a look back, look back. They say I'm grown, let's just take a a look back. Now I'm grown, let's just take a look back. Look back, millennium, flows venom. Windbreakers is sport denim. True B-boy, Nike Cortez with holes in them. First show is grade school, flowing like a wave pool. My addiction is to stage, blowing up like grenades do, huh? Asian rap, there's fame in that. Well, obviously, some people making mockeries, but I don't let that bother me. I just keep moving, pursuing the goals that I can see. These professions I compete, ain't no way to stopping me. Drinking, eating well, getting healthy. I was in a college dropout, but I might as well be. Skip calculus and engineering, said that I'd be wealthy instead. I thought that writing rhymes would bring me to bread. My buzz was like years ahead, but this was just a campus. Me and my boys wasn't toys, making party anthems. The goal was king size, and my eyes mesmerized from the earth to the sky. No lie, the butterfly feeling. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown, let's just take a look back. Look back. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown when I'm up on the track, the track. You ain't alone, said you never look back. But I was wrong, let's just take a look back, look back. They say I'm grown, let's just take a look back. Now I'm grown, let's just take a look back, look back. And now I'm graduated, agitated at the hardships, wondering if I could really get as far as these stars get. And now they rapping about money causing starships. I'm rapping for the food, but they just rhyming for the market. Damn. My timing must be off, kid. They tell me that I'm holding it. The 90 style is gone, kid. Well, I don't disagree, but this is all that I be working with. And is it cause of death that I like flirting with? Certainly. My name is Hydroponics, don't you try to spark me. Artsy, but my New York game is John Starksley. 456, roll CeeLo like it's Yahtzee. Some YouTube fame, but wonder where that really got me. But before you tell me, put on a suit. I'ma kick in the door and put my foot in it too. So they better be prepared for the moment that I show up. Plenty time to grow up after I blow up, mother. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown, let's just take a look back, look back. They say I'm grown, let's just take a look back. I'm grown when I'm up on the track. You ain't alone, said you never look back. But I was wrong, let's just take a look back, look back. They say I'm grown, let's just take a look back. Now I'm grown, let's just take a look back, look back. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto questo sampolone? Allora adesso vi diremo chi era che vi ha aiutati. Allora. Allora, questo pezzo era di Soul Chef e Hydroponics. Hydroponics, non c'è l'H, Hydroponics. Si chiamava Grown dell'album Remember When del 2010. Soul Chef, produttore neozelandese. Io ho sempre creduto fosse americano, però è neozelandese. produttore che ad oggi conta più di 25 uscite tra album, mixtape, raccolte, strumentali. Un produttore che utilizza sempre queste sonorità più, come si dice, più souleggianti, più jazz, più notturne, più notturne, la versione sempre. Soul della notte, sì. Ecco, questo pezzo aveva un sound abbastanza notturno, anche se non parlava di notte, non vi diciamo di cosa parliamo, cercatevi il testo, yeah. Hydroponics invece è un rapper americo-filippino, Ryan Abugan, classe 85, è un MC, un beatmaker, un videomaker, attivo dagli anni 90, ed è fortissimo. Ha pochi dischi solisti dalla sua parte, però ha molte collaborazioni con, sia con Soul Chef che con artisti che hanno collaborato poi con Soul Chef. Ci sono Incise, Illmind, un sacco di artisti. Poi magari vi faremo sentire qualcos'altro in più quando faremo una puntata più versante al jazz rap o al soul, mm-hmm, soul hip hop, no? Cosa che faremo, perché io la pretendo. Anch'io. Allora ci troviamo d'accordo su qualcosa, hai visto? E adesso faccio sentire prima un altro pezzo, poi Massimo, già... passiamo prima al pezzo. Mi piace questa cosa che abbiamo assunto di voler... lasciamo un po' col... Vabbè, questo pezzo sapete, sì, lo conoscete, ci spostiamo più vicini a noi. Niente Nuova Zelanda, niente posti molto più vicini, molto più conosciuti. Quindi adesso passiamo un bellissimo pezzo. Un attimino, che qua ho sempre problemi con mixer, con robe. Oggi è una giornata abbastanza lenta e noi proseguiremo lenti come la notte. Yeah. Notte, vieni. sognare ancora. Notte mia regina, quando il sole va giù, uso il cielo come china. Come solo fai tu, e fino all'ultima cartina, fammi addormentare giusto quando fa mattina. Dammi benzina in un bicchiere col ghiaccio, se cerco un contatto mentre navigo il tuo spazio. I miei occhi e la tua visione sono pazza architettura in questa folle dimensione. Tu mi possiedi, madrina dell'amore, dell'amplesso veloce, del sesso odore. Quando il letto è la soluzione, quando spengo la luce, il resto con il tuo odore. Tu mi hai, notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai, che sono anche in me. Notte adesso lo sai, notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai. Rilassami, poi cacciami nei guai. Notte vieni ed accompagna il tuo addetto imperfetto. Rack and range delle scelte si è ristretto. Prendi mo questo destino maledetto, rendilo vero in ogni suo aspetto. Vedi so, un nemico ci accomuna. Gli uomini del giorno hanno il sole, noi la luna. Quella è gente in cerca di fortuna, non apprezza, è gente che digiuna. E dalle emozioni se ne sta alla larga, chiusi in una cella mentre tu sei calda. Io sotto il tuo vestito e le tue mille luci, ispirato taglio i suoni, guardo mentre li ricucci. Notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai, perché sono anche in me. Notte adesso lo sai, notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai. Rilassami, poi cacciami nei guai. Fammi sognare ancora, notte mia regina. Fammi detonare come fossi una mina. Fammi stare fermo mentre il mondo gira, come se fossi il disco ed io la puntina. Ma solo se vuoi, notte mia regina. Ridi a squarciagola come fossi una bambina. Ora che siamo soli in un gomone alla deriva, prendimi la mano, portami a riva. Solo se vuoi, notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai, perché sono anche in me. Notte adesso lo sai, notte vieni e poi vai, prendi e poi dai, hey, amo i contrasti che hai. Rilassami, poi cacciami nei guai. Che altro dire alla notte se non rilassami e poi cacciami nei guai, in questa prosopopea di Frank Siciliano, come avrete capito tutti. Che bello. Un dialogo con la notte, questa canzone. Frank Siciliano, pseudonimo di Matteo Podini, di Treviso. Vabbè, lo conoscerete, o quantomeno ne avrete sentito parlare, sì. Di Frank Siciliano, sì, anch'io oggi sbarello. Ne parliamo un pochino giusto per rinfrescarvi la memoria. Inizia con il gruppo 113, con Chuck e Mistaman e Sciocca, voglio dire, cioè non stiamo parlando di nessuno, ecco. Iniziano con Questi sono i fatti nel 95, il primo demo. Chiedo venia. E nel 99 esce Acciaio, con nomoni come Bassi Maestro, TR, chi più ne ha più ne metta. Dopo lo scioglimento del gruppo, Frank Siciliano pubblica nel 2000 il suo primo album solista, che è Monkey Island. E Island, non ci riuscirò mai, che è comunque interamente prodotto da Sciocca, al quale mi è aggiunta voce, che è proprio lo stesso Sciocca che ha dato il soprannome Frank, sì, sì, al nostro, sì. Matteo Sciocca è soprannominato l'uomo che dà soprannomi nell'Unlimited Struggle, storia vera, eh. Poi Siciliano se l'ha aggiunto lui perché c'ho dei parenti in Sicilia, molto semplice, questo è tutto. Però lo ricordiamo soprattutto per Notte Blu, che comunque parla di notte, ci ha pianto il cuore a non metterla oggi, però ce la vogliamo tenere per un qualcos'altro, per qualcos'altro di molto più importante. La terremo per la puntata... La terza puntata, va bene, il 3 è il numero perfetto, siamo d'accordo, ma Notte Blu merita di più. Sì, faremo una puntata sulla Golden Age italiana, metteremo 60 Hz e ci metteremo Notte Blu. Metterla oggi era un po' un peccato, non era, non riceveva le giuste... Però il rapporto di Frank Siciliano con la notte è molto simile al nostro, a quanto pare, sì, quindi... contando che l'ultimo disco, Luna, si intitola Luna, esatto, nel 2015. Sì, proprio, sì. Infatti il concept è tutto così, tutto molto tranquillo, tutto molto notturno, soleggiante, un po' triste, malinconico, questo cucciolone di Frank. Nel 2015 ha fatto uscire questo disco, dopo anche lui ha fatto come i colli, ha aspettato 10 anni perché c'è un altro disco. Ha detto bella. L'ultimo pezzo che ha fatto uscire, l'avrete sentito, è l'ultimo singolo di Stock e Buddy, che hanno dichiarato il loro ritiro dalle scene. Pianti. È stato molto triste, intanto il beat sotto è finito. Quindi adesso andiamo avanti con la nostra tristezza, con la nostra notturnità. Non è per forza triste la notte, triste, ci sono stanco, anche tanti pezzi nella nostra scaletta bene. Di oggi che non sono tristi, sono notturni, la notte porta tante cose, rilassami poi, cacciami nei guai, non è tutto... Io sono già nei guai, quindi mi devo rilassare. Esatto, quindi andiamo su... Vabbè, allora dai. Olè, andiamo avanti con il prossimo pezzo, pezzo che non è pauroso, non è un pezzo che... Diciamo soltanto che ha rischiato di essere la sigla di questo programma. Sì, esatto. Ha rischiato, per quanto ci è piaciuto, ha veramente rischiato di essere la sigla. Prima di metterci a farci la sigla, a chiamare, dai Cero, registriamo, fatti il beat, vieni qua, montiamo tutto. Prima di fare questo abbiamo deciso, ma mettiamo per la prima puntata una sigla e poi ce la facciamo perché non abbiamo tempo, e il tempo l'abbiamo trovato. Quindi mi dispiace per voi, non sentirete mai questo pezzo tutti i giovedì, però per il momento godetevelo. È bella. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. Saturday night. Nightlife scene is wild. Profile with fly chicks, kicking game with a smile. I'm a black belt with bitches, undefeatable style. Mathematics in the pond, pilot added to the file. Skeptical when the sexual vibes are too incredible. My plans to examine and scan her intellectual. Nice Gucci glasses. You still go to school? Yeah. Got plans for the future? Oh, you major in computers? You're a dime piece, a fine piece of feminine specimen. The type that got me nervous and boosts my adrenaline. Let's go back to my crib and celebrate your estrogen. Fiesta till we siesta like we're Mexican. You've only been with one man, nah, I don't buy it. You're correct in the mental and resemble Selma Hayek. I can't lie, you're flying, I die to try it. Dive in it, but wait a minute before I work it. I need the prophylactic plastic when I tap it. She really bugged me out when I saw how she reacted. See, everything could have been perfect with the safe sex, but she hates the feeling like I'm allergic to latex. Never ever would I touch it, the fuck it or lick it. If she's raw every time, she's letting other motherfuckers hit it. My vibe was dead, she laid on the bed, slowly lifted up her head. And this is what she said. When you give it to me, yeah, give it to me raw. What? When you give it to me, yeah, give it to me raw. When you give it to me, yeah, give it to me raw. Hey, yo, fuck that, I'm out the front door, you whore. Back into action, relaxing in the Acura, macking this mommy in the Maxima, asking if that was a rapper. I'm like, word. I met you at a show several months ago. You and this other hoe asking if I had some blunts to roll. I didn't say ho. She probably would have flipped. I was slick. Replaced the word ho with bitch. Gave her compliments. I could tell she was feeling my confidence. Pompous. I pump my CDs like BDs. My smooth game had a brain in a deep freeze. My beats knocked on this busy little street block where cats keep the heat cock. It seems cinematic. A poetry in motion classic is illmatic. Like old jazz wax with dirty pops and static. The club just closed, so I'm stuck up in the trap. Saturday night, girls form feminine fat. Saturday night, whack cats think they can rap. Saturday night, I'm on a strict mission to bone. Saturday night, I'm not going home alone. My phone's on roam, leave a message after the tone. And I'ma check my voicemail once I'm in the caller zone. I'm up at Bill's bar with this thick hoe. Get a drunk, bring her home, show her where the dick go. Take this little nympho from up out of the disco. With 7L and Esoteric was on stage sipping Hypno. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. Fresh dress like a billion suns. For all the girls I might take home. This is an Poteva o no essere una decentissima sigla questa? Io ero d'accordissimo con questa cosa. Poi, senza nulla togliere alla sigla magnifica che abbiamo prodotto. L'avete riconosciuto, vero? Non dico il pezzo, ma almeno il rapper l'avete riconosciuto, dai. Questo era Epsi. Sopravvaluti. Epsi, non so come cazzo si dice. Epsi, Nightlife. Apathy, detto come Apatia. Tutti potrebbero capirlo. Vabbè, chiamiamolo Chad. Allora, Chad Bromley, classe 79. questo era Nightlife da Where's Your Album del 2004. Che è stato il suo primo mixtape / album solista. Dico solista perché ha iniziato a lavorare comunque anche con Self-Titled. C'erano, è fatto parte, fondatore dei Demigods. Fondatore, ma mi devi preoccupare. Si è disturbato un fondatore attimo. Fondatore dei Demigods, componente degli Army of the Pharaohs, che prima o poi metteremo anche loro per i cicciotti. Ad oggi c'ha 6-7 dischi solisti, più i dischi degli Army, i dischi dei Demigods, i dischi con Self-Titled, un paio di singoli che ha cacciato quelli, un numero X del featuring di produzioni, perché è anche un produttore, infatti ricordiamolo, che fa anche dei beat molto molto fichi. E niente, cioè, questo pezzo si chiama Nightlife, l'abbiamo messo semplicemente per questo, la vita notturna, il mood è figo, era giusto, ci stava, era la probabile sigla del nostro programma. E quindi abbiamo vi consigliamo le a cappella di Apathy a mettere per provare varie cose, che se siete un po' dei producer come ci abbiamo provato anche noi. Le a cappelle di Apathy sono molto utili. Noi ci è uscito benissimo. Ci è uscito un sacco di cose. Abbiamo montato su un beat, è uscito da Non vi diremo dove, non vi diremo come. Spero che lo sa. Beh, prima o poi lo facciamo uscire. Spostiamo. In bagno. No, ci spostiamo in tutt'altra parte di mondo, ma proprio tutt'altra parte di mondo adesso. Anche se la cattiveria e la vita di notte sono un po', visto che il pezzo che abbiamo passato ora comunque si chiamava Nightlife, quindi non era tanto cattivo però. Non era tanto cattivo, il prossimo pezzo è molto cattivo, cioè cattivo, è un po' macabro, sì, però parla comunque della vita di notte e di quello che ci può essere nelle città nella notte delle città, della gente di strada. Vabbè, posso metti il pezzo? Sì, metti il pezzo. A fare in culo i vecchi tempi, tu resta all'ascolto se mi senti. No, non c'è luce più per te qua in certi momenti. Ti porto dove l'asfalto finisce, questa notte inizio, dove la città precipita a picco su un precipizio. Un'altra stagione morta in questa città natale, e una voce in testa dice: dove cazzo pensi di scappare? Sì, mi gioco il tutto per tutto, tolgo i disturbi, rilancio il doppio full di teschi nelle sbarche in bar notturni. Non voglio perdermi, tu vienimi a cercare fra i detriti, tra le bottiglie rotte e i sogni infranti dei falliti. Le auto in panne su autostrade perdute senza benzina, cercate salvezza o la carezza amara di mamma eroina. Lucciole brillano sul corso, sotto un cielo blu notte come i lividi che portano sul dorso. Rotz mi riempie il bicchiere col vino rosso, lui si gode queste stelle, mezzo svenuto in fondo ad un fosso. Io lo so, la mia città non mama, io sì ma lei non chiama, mi tira al pacco anche stanotte fa la gran puttana. Mi vende a chiappa sogni dalla bancarella indiana, e alcolizzata noia in ogni fine settimana. È royal, la notte nei putan tour, tra chi leva via l'odore di troia con l'ambipur. Non ne posso più, è quando il silenzio parla che alla fine tutto il resto si calma. La mia alma insegue l'alba sotto gli alberi spogli, la mia vista insegue l'acqua nera sotto gli scogli. Le notizie dei partiti per la city con le quali mi invogli, ma sto deserto dal cuore non me lo togli. Io amo le spiagge grigie, odio la vita provinciale, in fondo amo le notti al mare, odio il vento che le dirige. Se non ci stai non credi, non vedi se non ci vivi, per ogni turista che viene a cagarmi il cazzo nei mesi non estivi. Sai dove ti porta la mia luce al neon questa volta, tra i pensieri le parole, i bicchieri, le piazze vuote ascolta, il silenzio, il senso che trovi in fondo ai mozziconi, le case blindate, i lampioni che fanno luce su noi disperati in giro, persi nei viaggi, nei discorsi da capogiro, fai un tiro, poi saluta chi ti sta vicino. Per chiudere gli occhi al primo mattino restano solo note vuote sulla partitura. Un giorno perde la voce, ora è la notte che scrive la sua andatura. Poche parole mentre il sole scende su di me. Buio atroce ed è subito solitudine. Il vespro e le bisensi toglie ombre, confonde i contorni. Abbraccia la città da dentro ai dintorni. Non lo vedrai se dormi, ma se lo vivi ascolterai i discorsi dei matti che incontri. Per le vie, per la strada, per chi sta in stazione, per chi sogna, chi cammina senza direzione, per chi fuma seduto su una panchina, chi fa mattina, chi questa notte cerca adrenalina. Sono lacrime da ubriaco mentre penso alle parole che mi hai spiccicato dentro un altro giorno che vivo strozzato. E non mi passa perché non mi passa più da mesi. Per me la realtà, per voi il regno degli incompresi. Sono domande troppo spesso che non trovano la risposta. Mostra solo un lato pulito per legge imposta. Dai vicoli giù in piazza, vecchi volti, nuove offese. Sorrise e silicone appena fuori dalle chiese. Vede cosa succede, non mente in 24 ore. Prima nere parti mentre giocano al dottore. Vede chi sta nel vizio nelle notti brave, ma chiude un occhio delle volte. Purtroppo non può parlare. Sa chi vive nel torto e dà conforto nessun alibi. Lei che si fa dipingere nei posti più improbabili. Chi c'è cresciuto, chi nato dai suoi dintorni. Osserva se la lasci, sa che poi ritorni pronti. In sto rapporto conflitto di odio amore. Non mi bastano le parole, troppi viaggi, nuove storie. Nella notte che ci inghiotta il suo rumore. C'è chi dorme, chi fa botte mentre un altro giorno muore. Ti porta la via, la luce al neon questa volta. Tra i pensieri, le parole, i bicchieri, le piazze vuote, ascolta il silenzio, il senso che trovi in fondo ai mozziconi. Le case blindate, i lampioni che fanno luce su noi disperati in giro, persi nei viaggi, nei discorsi da capogiro. Fai un tiro, poi saluta chi ti sta vicino per chiudere gli occhi al primo mattino. Cioè, il pezzo è finito, siamo noi che stiamo facendo un po' bello. Cioè, Io me l'ero imparato tutto al piano questo. Se siete nella mia scuola, voi apprezzerete tantissimo di essere a comando. Io non so perché c'ho questo amore incontrollato nei confronti di questo. Di questo gruppo. Si vivono la notte esattamente come la penso io. Anche se non sono di una città di mare come loro, e quindi non posso dire di queste, del vento, delle spiagge, queste cose non le posso dire, però sì, tanta stima e tanta fierezza di essermeli visti comunque dal vivo, anche di essere a comando, quando ancora in questo pezzo c'era Skyriot che ha lasciato il gruppo per motivi a quanto pare personali, facendo molto arrabbiare i restanti componenti del gruppo, che hanno proferito veramente poche parole riguardo il lasciare il gruppo di Skyriot. Gli altri che li ricordiamo giusto per formalità, che sono Green 183, Sandy, El Pax e McMike. Per formalità, ci sono anche loro. Ci sono anche loro, e tra l'altro spaccano di brutto anche loro, scusate la forma del discorso. Savona, infatti, raccontano la Savona di notte, la Savona underground, sottosuolo di Savona la notte, e sono anche loro attivi fin dai primi anni 2000 e aggressivissimi, violenti nei testi, limitano lo splatter a volte, però comunque non sempre mantenendo una poesia, almeno secondo me nella lirica. Scusate. Cioè, un calo di linea. No, è l'emozione per quanto mi riguarda, è proprio l'emozione. Vabbè, nulla. No, questo pezzo era Notturni da Destroyed Enemy del 2009. Degli SA Commando, io ricordo con molto amore il featuring con Goretex di Nonfiction, perché a me piace un sacco Goretex di Nonfiction, mi piacciono un sacchissimo i Nonfiction, sono felicissimo di aver visto il build al vivo. Andiamo avanti, tanto qua è caduta la linea per gli SA Commando, nessuno sa più nulla, nessuno vuole più parlare, abbiamo un calo di voce. Allora adesso passiamo. Sapete che passo? Adesso scelgo io. Allora, questo è un altro pezzo notturno, un altro pezzo con un mood più o meno notturno. Stiamo cercando di farvi vedere tutte le varie sfaccettature della notte, sì, secondo... Di questa vi dico il titolo, questa è Night Rider. Magari nel frattempo andate a cercare, non vi dico più niente, magari vi trovate, vi cercate il testo, lo leggete, capite che è un magari altro modo di leggere. Magari trovate la Night Rider di Elvis, non c'entra nulla, ve lo dico. vabbè, bella, cioè sentite che cattiveria anche qua. Our breathing is resuscitated when the sun goes down and we might riot. Hockey mask, Mike Myers. Do not try us, a drive-by us. Vampires, night riders. With the lightest to the sky around the campfires. Night riders, vampires. Do not try us, a drive-by us. There's nothing about me that's high strung. Nor do I look forward to being on unsung. Or being shot down in the streets by a pig's gun. Yup, I'm a product of the hood and it's all good. Raising the stakes with this gift I was born with. As long as I'm breathing, oh, we'll never stop. Most hoods are survived by goats. Whatever I seen quietly took notes. Ran the asphalt. Only time I use bath salt is the soap. Never did I once sniff dope. Used to believe when I saw a black crow fly by in the sky, man, somebody's gonna die. So goes the saying, got blood in your eyes. Calm as a bitch waiting patiently on the sidelines. Exotic smoke got these dudes doing drive-bys. Or better yet, call it high crime. Breathing is resuscitated when the sun goes down and we might riot. Hockey mask, Mike Myers. Do not try us, a drive-by us. Vampires, night riders. With the lightest to the sky around the campfires. Night riders, vampires. Not try us, or drive by us. Night riders. The block's hot. The feds coming through cause of a snitch loose tongue. Drums signaling what's to come. Alerting the jungle's habitats. In fact, it's preordained who's to live or die. No questions being asked when a Ruger's drawn. Last thing you see is a flash. I seen this cat when I was young die with his eyes wide shut. That image stuck with me to this day, it fucks with me. Forever searching for that piece that I lost, that's still missing. So when I write this composition, it's like the game of Scrabble in my brain. I shake around and make sense of it all and word it through my penmanship. Hood chemistry, good bud and some Hennessy's. Enough for some but not I. Fall is a season, I'm not talking about demise. Luck ain't the reason while I'm here and still alive. Breathing is resuscitated when the sun goes down and we might riot. Hockey mask, Mike Myers. Do not try us, a drive-by us. Vampires, night riders. With the lightest to the sky around the campfires. Night riders, vampires. Do not try us, a drive-by us. Night riders. People don't understand the power of music. Yeah. Music on its own is deadly. Nah, che figo sample, mi piace un sacco. Music combined with questo sample mi ricorda un sacco un pezzo di Mortal Technique che si chiamava Crimes of the Heart, che oltretutto era una ghost track nella prima release del disco... come si chiamava quel disco? Non mi ricordo. Però praticamente quella traccia era la ghost track, capito? Sto sample che era un sacco simile a questo, era fichissimo. questo pezzo era Night Rider dei DITC featuring OC e Faraoma. Cioè, quanti nomoni che ci sono. Sì, difficilissimi da pronunciare per quanto sì, mi riguarda. Infatti, gli americani di sacco sto sbolognando tutti i nomi a te perché. Boh. Cavaldonato non è, allora l'album è DITC Studios del 2016 e ora parliamo un po' dei DITC. I Digging in the Crates, gruppo fondato a New York nel 1990, composto da di anni d'oro. Esatto, parliamo di Diamond D, Lord Finesse, Fat Joe, Buckwild, ossia Show e dei G e Big L fino purtroppo all'arrivo della sua morte. Quindi questa è una crew leggendaria, riconosciuta nel panorama underground e non in tutto il mondo. Hanno collaborato con chiunque, hanno fatto disconi su disconi. Pezzi cattivi come l'ultimo che vi abbiamo fatto sentire. Esatto, pezzi cattivi, anche pezzi dolci. Ho certi sample di Diamond D che uff, fanno cadere i capelli. Qui c'erano anche O.C., noto come Omar Cradle del 71, e Pharaoh Munch del 72, noto come Troy Donald Jamerson. Ci teniamo molto a farvi sapere la data di nascita di tutte le persone che mi nominiamo. Sì. No, più che altro perché questa è una storia divertente. Praticamente O.C., nato a Brooklyn, si è trasferito nel Queens quando aveva 11 anni e di fronte a casa sua abitava proprio Pharaoh Munch, quindi è una storia bellissima. È una storia che wow, cioè, ho quasi venire il lacrimuccio. Sono passati una vita e poi si sono ritrovati a fare queste cose insieme. Insieme, che è bellissimo, è romantico, è notturno. Chissà quante notti insieme hanno passato. Vado. Adesso ti lascio solo a correre. Vabbè, dai, di quello stiamo parlando. Stiamo parlando di notte. Aspetta, adesso perché non... effettivamente andiamo in onda il pomeriggio, la gente si chiederà perché. Perché vabbè, noi volevamo fare una puntata sulla notte, a noi piace la notte, ci piacciono le stelle. Ascoltatela in podcast verso le 11:30. Ma anche le 2. Vabbè, capito, magari mamma vuole dormire un po', magari qualcosa. No, aspetta, abbiamo detto... No. Sali. Prossimo pezzo. Ah, questo. Mi raccomando, ascoltatelo, mi raccomando, godetevelo tutto, mi raccomando... Donne al microfono. Però se dici un'altra volta mi raccomando ti crediamo tutti. Donne al microfono, dico solo questo. Ladies and gentlemen, io metto play. Assalti frontali. Quello che vedo è vero e io tra notte e fuoco vivo. Bisogna essere pazzi perché quello che vedo è vero e io tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci e di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione. Vado in giro nella notte, mi consumo nel fuoco e poco a poco tutto torna se mi do uno scopo. Il mio sangue bomba, sangue di lupo. Andrò il creatore giovane o ricco, come un sopravvissuto il mio l'avrò. Perché spingo su un'idea e il mio cane chiama, come chiamano in Wezzina la moschea. Assalti in azione amore, e tu sei ancora nella notte dell'indecisione. Arriveremo dove il buio finisce, nessuno capirà quello che ancora ci unisce. Lealtà non si ha se non si dà, anche se qualcosa dentro dice che qualcosa fuori non va. Adesso notte spingimi lontano, quello che era sogno diventerà destino. Col cane vado in giro a studiare il da fare. Il modello di imprenditore è rapinatore. È buio nel paese, nell'ordine borghese. Signori, con stipendi da 20 milioni al mese. E gente onesta spinge pani di fumo per le bollette per immaginare un futuro. Bisogna essere pazzi, pazzi. Quello che vede è vero e io tra notte e fuoco vivo. Bisogna essere pazzi perché quello che vede è vero e io tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci e di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione. Troverò per me sempre più stima, gli altri mi colpiscono come non ho mai provato prima. Merde, nella notte delle insicurezze mi metterò alla prova per sentirmi viva. Colpita in faccia ora, lividi viola. Non mi nascondo la paura di uscire da sola, ma mettiti in fila, impara ad ascoltare prima la mia parola. Non sono proprietà, sono sì ora. Risparmia i pezzi, idiota. Sai che la mia storia è appena cominciata dalla fine. Va tutto bene, se ho documenti falsi per partire. È un'emozione, non mi abituo a dormire. Trovassi amore e protezione, davvero. Nella notte delle strade che cammino, sarei rilassata e non avresti l'odio che respiro. Sul filo, continuo, tra notte e poco vivo. Sono decisa, nella mia strada la prudenza è già finita. Dolore di un momento, mi darà la forza che stavo aspettando. Bisogna essere pazzi, pazzi. Quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco vivo. Bisogna essere pazzi, quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco. Voglia di pezzi in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci e di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di un'altra occasione. Ebbene sì. Ebbene quanta sì. Verità in queste parole. Mi era sfuggito un attimo la fine del pezzo, in realtà, vi chiedo scusa. Ladies and gentlemen, mi dispiace comunicarvi che non siamo pronti. No, non è vero, siamo sempre pronti, siamo nati pronti. Siamo nati prontissimi. Questo era Notte e Fuoco degli Assalti Frontali dall'album Banditi del 99. Ovviamente so che lo conoscete. Signor anno, l'anno 99. Se seguite questo programma, io non dubito che voi conosciate gli Assalti Frontali. Soprattutto questo disco dove la notte in realtà è ripetuta diverse volte, ma qui c'era qualcosa di più in questo pezzo. Bisogna essere pazzi. Che è vero. Mamma mia, è proprio vero, cioè allucinante tutto questo. Parliamo un attimo degli Assalti Frontali. Parliamo un attimo degli Assanti. Sì, degli Assanti Frontali. Che sono un gruppo assolutamente underground, ma assolutamente underground. Rap italiano di Roma, degli anni 90, anche se questo disco è del 99. Noti per il loro, insomma, impegno politico, diciamo che lo sappiamo, sono molto noti per questo e molto riconosciuti e da me molto stimati per questo. E nascono dallo scioglimento del gruppo Onda Rossa Posse, da cui nascono anche gli AK-47, di cui potremmo dire sì e no alle stesse cose. Sì, in grosso modo sì. Abbiamo fermati, quindi ormai. Militanta Bonnot. insomma, cioè, sempre ha avuto dubbi sulla T. Se... No, è Bonnot. Poi, se non gli piace, la cancella. 8 dischi di produzioni e tanta poesia, tante belle parole, tanto coinvolgimento politico, personale. Tante belle robe. Tanti assalti frontali, insomma. E faremo una puntata anche su di loro, perché... Sì, sì, questa è una vittoria. Dobbiamo preparare, faremo una puntata magari sul... Non dico sulle posse, però faremo una puntata magari sul rap incentrato sulla politica, quindi è ovvio che ci metteremo gli assalti frontali, no? È sì, ovvio. No? Sì? Sì, okay. Sì, io sono d'accordo, io non aspettavo altro. Bene, dopo. E ora, dopo Notte e Fuoco, continuiamo con un... Davvero, e io farò Notte e Fuoco io. Lo sto dicendo a bassa voce, non guardarmi. Sento in cuffia. Se volete anche voi che il programma continui con un solo conduttore, premete il tasto 1. Se volete continuare a avere due conduttori, premete il tasto 47. Uffa. Non c'è un tasto 47. Ci sono gli AK-47. Me ne vado. Ad andarmene. Allora, adesso mettiamo... Ma sì, dai, non un po', mettiamo un pezzo. Sì, non so se avete notato che la scaletta sta venendo un po' decisa al momento, perché a noi abbiamo scelto una serie di pezzi e poi mi ha detto andiamo dove ci porta la notte. Anche se è pomeriggio. E, certo, qui a Tokyo in realtà è notte fonda, però sì. Facciamo finta che non sia così. E quindi adesso ci trovate, insomma, collaboriamo con voi, interazione col pubblico. Infatti, per decidere. Prima o poi dovremmo... Sì, inizieremo anche l'interazione col pubblico, ma prima intanto telefoniamo impariamo casa, a interagire io e te. Che stai facendo in radio? Vai studiare! Vabbè, nulla ragazzi, oggi in realtà non abbiamo preparato la puntata perché ho un po' di febbre, lei è sempre impegnata. Vabbè, qualsiasi cosa ci scriverete sulla pagina Facebook, noi intanto vi passiamo un botto di bella musica. Sì, infatti, dai, poi se non vi siamo simpatici la musica è bella comunque. Vabbè, visto che su questi artisti abbiamo poche informazioni, vi lascio due pillole così. Qui, questo tac, è un disco tac. Del 2000, tac, tac. Questo è un disco del 2016, si chiama Distopia. Degli Emanon, da non confondere con nessun altro nome simile, che sono semplicemente un duo nato nel 95, composto da Exile, famoso produttore di cui abbiamo già parlato. Sì, di cui parleremo in continuazione e in poi, sottofondo. Poi da Aloe Black, che tutti conoscono probabilmente per anni. Ecco, nel 95 si è unito con Exile, ha formato questo gruppo che continua a cacciare dischi, gli Emanon appunto. E nulla, vi facciamo sentire Night Stalkers. Ecco, il titolo magari non è proprio bellissimo, però comunque è notte per notte, poi stalker. E poi ci farete sapere che cosa ne pensate di questa evoluzione. Ecco, voi dite, oh, ma quello di Nida Dollar in realtà era un rapper già 20 anni prima, bella. Yeah, M&O, get the proper Aloe Black, Supreme Rap Talk. Exile, the banger beat knockers. Yeah, watch out for the night stalkers. What does it take to be great? Whatever it is, that's where I'm at. Whatever you is, it's not that. Excuse me, but Aloe Black does not lack the proper tact and poise to out-rap these boys trying to be men, but men don't cry easy. And my eyes been dry a long time, believe me. If you choose not to, what can I do but make you scream uncle like Sam was pointing at you? Feel me, please, I won't beg from my knees. Even if my stomach growl and Hades start to freeze when they leaves get to ease from the limbs of the trees. It's time to turn the clock back 30 degrees in the season. Before I had a reason to breathe, I'ma season these keys like a trap with the cheese when I rap. You believe that I did every deed that I say that I did or did. What I mean is, as a kid, I could tell who I was. As a man, I know who I am. And that's because I reflect, you animals react. Yeah, it's Aloe Black getting started on this exile track. Let's go. Yeah, Eminem gets the props. Aloe Black, Supreme Rap Talk. Exile, the banger beat knockers. Watch out for the night stalk. Y'all probably expect that I'm weak, cause I dress like a sheep, but you never inspected the teeth. Get your silver bullet, load up your heat. Try to stop my heart beating, I ain't speaking to the cousin asleep. He don't like me, that's the dude that I cheat so very often. Trying to move me to a suite complete with buried coffin, but my name shouldn't be shown upon a headstone just yet. Marquees and magazines, that's it. They ain't taking Aloe B too seriously. Listening to too much Jay-Z, trying to brush me off or over like dust on their shoulder. But there ain't no dust on my shoulder to brush, cause the gap won't rust if you allow it to bust often enough. So y'all could just keep huffing your puff. You could have tall dreams, but be careful where you go. With your head up in the clouds, you might stub your toe. Plus hoes so fickle, they might love your flow. One day, the next day, they out the back door. Let's put the game in perspective, call it tennis. Just because you get in love doesn't mean you winning. Matter of fact, when they hating, when you know this shit is popping, that's when tennis turn to football and the suckers get to blocking your moves. They wanna walk in your shoes without paying they dues, but that's the way they gon' lose, the little fools. Exile, play the beat, let's cruise at high altitudes. LA to Moscow, the whole world is ours now. Remember the old days, the shitty mics and city systems, but the head still came through to listen. We ain't never stopped the mission, just took a break, a sabbatical. Things got a little bit dramatical, separate but equal. We raised up the bar and plus both came up out of the fire without a scar on us. Eminem gets the props. Aloe Black, Supreme Rap Talkers. Exile, the banger beat knockers. Yeah, watch out for the night stalkers. Watch out, Hello, Zialo. Black, scritto fra l'altro Blacici, no Black come il colore, ma con doppia C finale, cioè, per caso non lo sapeste. È figo anche questo pezzo, non soltanto I Need a Dollar, dai, dovete ammetterlo. Dai, cioè I Need a Dollar è orecchiabile, se lo sono ascoltati tutti, è passato nelle orecchie di chiunque sia nato radio prima del 2003, però... Però non è a livello, secondo me, di questo pezzo qui. Allora, andiamo. Prima di andare avanti. Facciamo le cose formali. Sì, facciamo va bene. Le cose formali, dai. Allora, ci state ascoltando su wombat.noblogs.org? Se sì, bene. Se no, andate. Oppure mandateci... Ma chissà se ci arrivano le mail. Non ci arrivano, ho ancora aperto la posta mail. Spero che ci avete scritto, se non trovo mail mi arrabbio. La posta è postawombat@insiberia.net. La frequenza AM che arriva fin dove vuole, fin dove si può, fin dove piace a Dio. Dai. La 1359 AM. AM, ricordatevelo, AM. basta, la nostra pagina Facebook è Sessioni Notturne. Esattamente come noi. Basta. Ci troviamo in podcast. Oggi Marzo è arrabbiato. Ci troviamo non ci posso in podcast. Fare ci trovate i podcast e basta. In realtà, non si può niente. Però sarebbe bello se scriveste anche lì. Magari, boh. facciamo una chiacchiera. Gideo, ma sai che la puntata scorsa faceva abbastanza schifo? Perché non. Perché non vi migliorate un po'? Perché dovremmo. Non smettete di fare radio? E noi risponderemo con un bello: dai, la prossima puntata la facciamo su qualcosa che ti piace. Dimmi che ti piace. Ci dicono dei nomi e noi lasciamo la radio. Perché sicuramente faranno schifo, perché noi siamo bravissimi. Allora, ora possiamo andare avanti. Sì. Allora, andiamo avanti con un gruppo italiano, profondamente italiano, che ultimamente lascia un po' a desiderare, nel senso che hanno fatto delle scelte componenti di questo gruppo nell'ultimo periodo, da cui io mi dissocio molto personalmente. Sì, va bene, parliamo di tanto tempo fa, di quando esce. Infatti io questo pezzo ci ho tenuto particolarmente perché restasse in scaletta, perché a me questo pezzo che parla delle paranoie, dell'andare avanti nonostante le notti, nello scorrere della vita, nel girare del mondo, nel fatto che non ci si ferma mai, ma c'è anche la notte in cui si chiudono gli occhi, a me questa cosa mi piaceva un sacco. E quindi ho deciso di tenere il pezzo, anche perché c'è un beat pazzesco, che a me poi bossanoveggiante, mi piaceva un sacco. Anche se appunto loro, stiamo parlando degli Erafune. A me no. A me sì. Ci tenevo a dirlo, a me no. Il gruppo non mi piace per... No, il gruppo neanche a me fa impazzire, ma sto pezzo sì. Ognuno ce la tiene i suoi gusti. Stiamo parlando degli Erafunesta, fondati da Surfa, il fratello Exo, con un amico di nome Scuba Libre, e il nome è tutta una tamarrata. Però questo sono loro e... Ci sta ascoltando Scuba Libre. Vabbè, che lo faccia. Che iniziano con nel 2002 con Aree Ira Demo Version, che in realtà si ferma molto a livello locale come consensi in generale. E si trasferiscono a Siena nel 2015 per università. Hanno una vita molto semplice. Che ho detto? 2015. Volevo dire 2005, scusate. Lapsus del momento. Per citare un altro grande. Ok, va bene. Vi facciamo sentire questa canzone perché a me questa canzone piace molto. Poi vedete voi se ascoltarvi gli Era Funesta. Non... Vi dirò, mi dissocio anch'io molto da loro ultimamente. Però sto pezzo, ragazzi, godetevelo tutto, è bello. Volevo passare Ira dei Catania Faia, però siamo là. Però non era notte. Allora, questo è Due di Notte dall'album Il Ritorno di Achille degli Era Funesta 2007. Basta, come dice la mamma di Ted, non succede mai nulla di buono dopo le due di notte. Un classico. La terra gira come gira la lancetta, e io non mi fermo, no, no, non mi fermo. La terra gira e va di fretta senza intoppi, e io non mi fermo, ma ora chiudo gli occhi, chiudo gli occhi, chiudo gli occhi. È un'estasi trascendentale che scende sul guanciale, una barca nella tempesta tra il mio dire e tra il mio fare. È tardi per il tramonto, presto per l'alba, sono in viaggio e so quanto manca, perché quando gli occhi sono chiusi è il terzo che si spalanca. Chi ti ha invitato in camera mia, frutto proibito della fantasia? Chi sei tu che suoni le corde del mio io in questa sì dolce sinfonia, che spegne le torce della mia fobia, mi porge le gocce della sua follia riposte nel fatto che la vita è un indovinello con troppe risposte. E non riesco a distrarmi, sogno sul destro entrambi, è una continua prospettiva, due di notte o di mattina, che vuoi che cambi? Gia, tutto uguale come un happy meal, quasi quasi vado dal destino e gli chiedo i diritti per avere scritto così la mia biografia. In bilico onirico mi ricordo che amplifico e mitico ogni ricordo, con il tipico brivido di chi è sordo al lato fisico del mondo. E se avevo paura del buio, ora mi ci rifugio per cercare ciò che non trovo, qui dove dicono che l'aurora coincide per forza con un giorno nuovo. La terra gira come gira la lancetta, e io non farei per conoscermi bene come mi conoscerei. Due di notte, giornata ordinaria, io viaggio in linea d'aria, su una corda immaginaria tra sogni e reale, la verità è secondaria. Vedo, sento, immagino, elaboro pensieri che ogni volta mi assalgono. Doveri rimandati mi rimandano nodi al pettine che non ritardano. Giorni dove è tutto previsto, la routine è come un film già visto, ma non capisco perché la scadenza arrivi poi sempre prima del previsto. Squilla cielo e ripenso a lei, non mi comporto mai come vorrei. Ripenso al discorso come è l'impulso, non fa mai quello che dovrei. La finestra resta aperta, un raggio di sole che entra. Non risolvo quel problema se la luce dell'idea rimane spenta. Il sogno è sigillato, prego Dio per ogni peccato. Nulla resta scontato, il mondo corre, non sarò doppiato. Due di notte io sto a stretto contatto con la parte di me che il giorno io non ho. Due di notte io sto a stretto contatto con la parte di me che non ascolterò. Di Marsi in questo momento non era il massimo, però io purtroppo ho anche questo lato un po' più trash che devo tirare fuori ogni tanto, accettatelo. Ma anch'io c'ho un lato più così, infatti per questo che prima o poi passerò un bel po' di pezzi di McNagg Hammond, credo, però capito. Tipo a breve. Dai! Scusate, spoiler. Ma intanto, dopo lasciamo questo mondo un po' così, lo so. Vediamo un po' adesso, passiamo... Un attimo che sto decidendo il pezzo, eh. Attendete, rullo di tamburi, respirate profondamente. Ma sì, dai. Che lo sappiamo. Allora, adesso passiamo un pezzo che non parla di notte. No, però... Però il mood ci piaceva, ci sembrava molto notte, quindi fatevi il viaggio a notte in questo mood qua. È decisamente notte, cioè il sample, regà. È decisamente buio, stelle, oh, sì. È proprio da passeggiare in una città di notte con le cuffie. Anche freschino. Mentre ti passano vicino una macchina o due perché non c'è molta gente che fila. Vedo già sto pezzo, vi prego, ascoltatevelo di notte mentre camminate. È bellissimo, però me ne parlo dopo perché adesso mi scoccio. Intanto ci riprendiamo un attimo. Ci ascoltiamo qualcos'altro. Prendetevi questo bel pezzone, questo bel sample e rilassatevi anche voi. Yeah! That you niggas don't wanna rhyme after. We let the mental chrome blast. So when I ask you, you better answer who's the microphone master. Yo, we the microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past ya. We super rhyme makers. Yo, we like the soul snatchers. My crew is trife, my nigga, we microphone masters. My views defy nation. Yo, we microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past ya. Yo, we super rhyme makers. We like the soul snatchers. My crew gets strife, my nigga, we microphone masters. My views define nature. Hey yo, these times plague, why react with fear to see you trap me in? But crime rates can raise the stats, you hear can teach the fact. We send for high. high wages. Yeah. The path is clear for seeds that have to live with skyscrapers. Raise the atmosphere beneath this abdomen. This rhyme's dangerous. The thesis that releases pathogens and beats us back to stain the track again. Word up, proceed to grab the pen and write raps as nights pass. Described as light jabs and hit the pad like knife stabs for price tags. This cold city is known really for tripe cats and rude folks. Who roam Philly with no pity for blue coats. Some rogue really can do dope. This bold theory I broke clearly in two notes. For broke willies and smoke nearly the whole Philly in two toes. For those with me, a few quotes for you. Had an acute dose and through growth, you prove close to proof. No matter what news boasts, it's true, yo. So let it sink in. Whenever these things blend, the names weird what a nigga was thinking. So view this glucose and dudes pose dramatic stress. The most dramatic text, the adamatic at its best. So who grows the fattest checks? You better add its debts. Recoup dough and grab the rest. My plan is next to snack what's left. Through though, so we the microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past ya. We super rhyme makers. Yo, we like the soul snatchers. My crook is trife, my nigga, we microphone masters. My views defy names, yo, we microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past ya. Yo, we super rhyme makers. We like the soul snatchers. My crew gets strife, my nigga, we microphone masters. My views verbal verse of metal projectiles. Serve you first with several perfect styles. Rebels and exiles, curses worse than devils and reptiles. Murderous stepchild who dissects through medical X-files. Searching gets stretched out in a hearse with elegant textiles. Crevices, death piles, reaches the masses. The reaper's in action, either relax or else the heat. Turn your features to ashes, from ashes to ashes. Dust to dust, from dust till it's dawn. They act with they rap and acting tough and bluff on they songs. They act like I can't divide with boldness. My trial and disorder like rigor mortis. Bars are broader than Dwight Howard's shoulders. Cowards posing like they be bosses. Man, this shit is preposterous. Really obnoxious whenever these niggas be flossing. Posing with gritty responses. My delivery monstrous. Enemies harsh. Energy off the rick. Scale these victims fell. I'm sending them off into the grips of hell. Well, my niggas rolling with me. The gunshine state, still known as the coldest city. Nigga, what? True master makers of this rhyme shit. Microphone, microphone, microphone. Microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past. Yo, we super rhyme makers. We like the soul snatchers. My crew gets strife, my nigga, we microphone masters. My views define nature, we the microphone masters. Abusing mics with lyrics that might just blow past ya. We super rhyme makers. Yo, we like the soul snatchers. My crew gets strife, my nigga, we microphone masters. My views define nature. Tutt'altro livello. Cioè, ragazzi, ragazzi, ragazze, asterischi, cioè, raga, dai. Cioè, niente a che vedere col pezzo di prima, obiettivamente, non ho nulla da togliere. No, è vero, però. È vero. Questi erano gli Epidemic, questo era Mike Masters da Something for the Listeners del 2013. Come avrete intuito, questo pezzo non parla di notte, però il sample tutt'altro, cioè dice tutt'altro. Questo pezzo parla di maestri del microfono, che sono due MC, sono X1, colombiano, nato e cresciuto a New York, e Technician, nato e cresciuto in Florida. Che si incontrano in una notte di... Che si incontrano in una notte di mezz'estate. In realtà no, che si conoscono alle scuole superiori e registrano un mixtape. Poi questo mixtape non viene pubblicato. X1 si laurea in ingegneria del suono. Si mettono in contatto con Fifth Element, che è il produttore del loro primo disco, e fanno uscire il Lingspree nel 2011. Questo è il terzo album del 2013, prodotto interamente da Esco, che non so chi sia, ma ha fatto dei beat assurdi. Nulla, hanno fatto uscire un disco nel 2016 e uno nel 2018. Quindi prima o poi vi passeremo anche gli altri, e sono uno più bello dell'altro. Yeah, yeah. Quindi adesso andiamo avanti, perché sono bello preso. Yeah, in realtà c'ho un sacco di sonno. Un sacco di febbre, perché questo è un polline primaverile, ci sta. Non sono allergico a nulla, una grande botta a tutti. Cominciando, ho preso freddo, ragazzi, è questo. Stavo cercando di alternare il più possibile fra America e Italia, sì, un po' per non scordare le origini delle nostre prime puntate. Adesso vi passiamo un pezzo uscito. Io lascerò interamente il diritto di parlarne a te, perché so che sei molto affezionato a questi artisti un qui. Un pezzo uscito tra il 2007 e il 2008. In realtà l'uscita non si sa bene. È un inedito uscito di... Abbiamo uscito Mecna, sicuramente. Abbiamo Mecna e Game on Science, Tutto in una notte. Niente, vabbè, intanto ve lo sentite. Sì, intanto ve lo sentite, vi parlo dopo. Tanto Mecna sapete chi è. Diamo un po'. Vabbè. Diamo un po'. Che non Diamo un po'. Questo è un bel pezzo, un bel inedito. Ed è tutto in una notte. I've got something that I wanna say. I think the melody on the box will help me explain. Sai, sì, va così. C'è K9 sul beat, McNamara, Gammon, va così. Questo è tutto in una notte, sì. Tu dove sei? Chiudo la porta di casa ed il rumore delle chiavi, dire no ad un silenzio che non si paga, a lagri nei capillari. Quando la musica non c'è, la fantasia emotiva deve prestarti le mani. Con uno smalto volutamente visibile magari, rosso sangue, colori normali. Posso stare e dormire domani, posso farlo, per me nulla è impossibile. Nulla, tutto il contrario di quello a cui dai una minima importanza. Quando la notte è buia, rido d'inerzia, leggo i miei desideri al petto, gli stringo la fasciatura. Dentro piango ma per arsura, fuori si deve essere fuori per fare bella figura. Serve prestarsi per rivelare interessi da ambo le parti. E forzarlo è contro natura, è dura, pure se stare lontano ormai è un'abitudine appoggiata con i gomiti sulla paura di non servire più, guardare su la luna, prenditi il tempo necessario per distrarti, dove i ricordi si appoggiano alle pareti dei 16 anni, felici che stringono mani agli altri, ed ho pensato che il tempo può non bastarmi, ed io mi tirerò su e in una notte dico, sogna, stanotte è quella giusta per noi, ora. Sei così lontana, sogna, a volte il tempo è contro di noi. Ma se vuoi, ti aspetterò, ti aspetterò, ti aspetterò. Stanotte tu mi salveresti, come una luce in fondo al buio, bucato dai suoi riflessi, con le tue mani tra i miei capelli, risolveresti questo intruio complicato che ho allargato come cerchi nell'acqua. Scappa da ciò che credi sia una macchia nel tuo mondo perfetto, ma che è fatto di sabbia, e quando il mare l'ha bagnata, eri così impreparata, e la rabbia ti ha levato anche il sorriso dalla faccia, ma mami mi tieni come corde, mi neghi forte, come se fossi l'unica soluzione, ti accontenti, ma per me non ti puoi dire che il confine tra amore e routine è una linea sottile, ma ti ricordi più i brividi che si provano quando sentiamo battere il cuore dentro allo stomaco, quando a guardarsi le parole non si trovano, si parla con gli abbracci dentro a baci che piovono, per la sprecata, indi per cui per lui tu sei fuori portata, e non ti accorgi che ogni forma di difesa è una resa alla normalità in cui ti sei intrappolata. Vieni via, via con me, sulla scia come se fossi mia veramente, diretto, perché l'empatia che ora c'è tra di noi è malattia, e non c'è tempo da perdere, più non c'è tempo, tempo. Sogna, stanotte è quella giusta per noi, ora che sei così lontana. Sogna, a volte il tempo è contro di noi, ma se vuoi ti aspetterò, ti aspetterò, ti aspetterò. Sogna, stanotte è quella giusta per noi, ora che sei così lontana. Sogna, a volte il tempo è contro di noi, ma se vuoi ti aspetterò, ti aspetterò, ti aspetterò. Bentornati su Radio Wombat, siamo Mars e Vintro per chi si fosse collegato adesso, e questo era Tutto in una notte, sessioni notturne è il nome del nostro programma, non a caso. Tutto in una notte è il nome del pezzo. Mecna Fit Game on Science. Allora, diamo due pillole ai nostri ascoltatori. Mecna è conosciuto, nato come Corrado Grilli, è un rapper italiano, componente del gruppo Microphone Killers dal 2000 con Lustro. Non so perché, scusami se ti interrompo in questo momento di grande cultura, però è sempre divertente sentire i nomi dei rapper, degli MC vari, quando te li conosci tramite il nome e poi senti il nome vero, è scappa sempre la risatina sotto. Sì, alla fine è Corrado Grilli. Sì, esatto, non te lo aspetteresti, certo, mai. Se cerchi, scusate, su internet, se è appassionato di grafica, lo trovi Corrado Grilli, un grafico. So, per il ricreativo. Cioè, probabilmente buona parte degli album hip hop italiani che avete comprato, che avete visto, la copertina l'ha fatta Mecna, cioè, vogliamo dire questo. Quindi nulla, nel 2005 esce il primo lavoro in studio dei Microphone Killers, nel 2007 il secondo, dove c'erano ospiti chiave, Gaemon, Aist, Macromarco. Cioè la zona è sempre quella, si parla di Blue Nox, Unlimited Struggle, cioè siamo sempre in zona, purtroppo, cioè non purtroppo, meno male, siamo sempre in zona. Nel 2010 fa uscire il suo secondo EP, vabbè, parliamo del suo primo disco, quello che conoscono tutti, è Disco Inverno. E basta, raga. Cioè, poi è uscito Lasca, che suona più elettronico, Lungomare Paranoia, Blu Karaoke, nessuno più ascolta, nessuno più lo sopporta, fa roba tamarra qui e là, elettronico, però dei pezzi belli ci sono sempre, secondo me. Gaemon invece ne parliamo un'altra volta, perché di Gaemon ne parliamo un'altra volta, ne parleremo, sì, sì, approfonditamente. Una fissazione sua. Non è una fissazione, però se ti piace un artista ti piace. No, no, è vero, bravo, è bravo, questo non gli frega. Sai che non l'abbiamo ancora passato? Eccoci. Common. È vero. È una cosa che nella prossima puntata vi dovrete aspettare, perché questi sono, è gente che in realtà popola le nostre giornate. Sì, sì, ecco, Common per esempio, anche una mia bella fissazione, uno dei miei rapper preferiti. E il prossimo pezzo è un altro pezzo che ha rischiato di essere la nostra sigla, vista la notte come argomento, perché è un altro gruppo che popola le nostre giornate. Devo, ma vogliamo parlare delle nostre vite, ma parliamone dopo, ad intanto sparatevi questa bomba di pezzo in cuffia, macchina, ovunque voi siate, ascoltateveli, sono i Canon Linguist, se dopo ne parliamo. Sì. Cheeto black, when the chips are down, who dips and who reacts? Holding under pressure and get us to where we at. When all hope's lost, we battle to get it back. In fact, dark times, all when heroes shine. Without them sour grapes, there would be no wine. When we go down, adversity for breakfast, zero crime. It's settling for less than fighting tooth and nail. No matter who prevails, instead of wishing on a star, I'd rather comet it by the tail. Your shipping coming in, then you gotta make a sale. Catch the wind and make it sail. And hit the ground running till your heartbeat sound like a battle drum thumping. Those talking about failure ain't talking about nothing. You may weather the storm if you don't stop punching. Reach for the stars and you might just touch them. Change is strange. These days ain't sunny and the sea ain't tame. We're playing games where the rules ain't clearly defined. In this coffee black world, knee deep in the grind. Be a vine in the shade, a salmon in the stream. Try looking for the stars when examining your dreams. Can go from street singers to pop figures. From black niggas to a brother that is following stock tickers. To grow in the night, you gotta create light. Gotta be a gamma ray burst that can erase sight. No astronomer has seen your incredible gleam. And you don't need a telescope to detect dreams. You blessed with a mind that can see through space. On dark nights in the stars, you can find your face. Just look up and marvel at all the constellations. Egyptians built pyramids from these creations. una notte stellata per i Cani in Linguis, insieme a in the background. Rick Warren. Siamo nel 2011 con questo pezzo, Oneirology è il nome del disco. E il pezzo si chiama Stars Shine Brightest in the Darkest of Night. Ce l'ho fatta. È un titolo bellissimo. Il problema è dirlo. Ti dirò la verità. I Cani in Linguis. Fatto sta che è un pezzone incredibile. Di un disco incredibile, fra l'altro, che non è neanche il più famoso loro. Oneirology. I Cani in Linguis, che sicuramente avrete apprezzato e apprezzerete e ve li ripasseremo in continuazione, che sono un trio hip hop americano di Lexington, che è attualmente composto da Deacon the Villain, No e Natty. Il gruppo ha all'attivo un'estesa discografia, hanno fatto una serie infinita di dischi bellissimi tutti, perché hanno una capacità di campionare, di lavorare sui beat e di lavorarci anche con le voci veramente incredibili. E io direi di passare ai successivi, dai. Tanto i Cani in Linguis li rincontreremo e ne riparleremo successivamente, tanto sono un gruppo che ci piace personalmente tantissimo e vi faremo piacere a forza, perché se non vi piace, perché se non vi piacciono potete anche potete anche chiudere la radio, perché quante volte abbiamo detto che dovremmo smettere di ascoltarci, cioè, così no, infatti vogliamo. Ascoltateci, è importante che ci ascoltate ogni volta, no, vedi che smettiamo capito, però cioè, non è colpa nostra se smettiamo, è colpa vostra perché non ascoltate non ascoltate la roba giusta. Vabbè, no, non diciamo così, sembriamo cattivi. No, non siamo cattivi, siamo buoni. Torniamo in Italia, torniamo. Aspetta, nel mixer c'è qualcosa che non va. Il beat sembra che clippa, non so se sia bassissimo. Mamma mia, si fanno un sacco di problemi da queste parti. Guarda qua, clippa. Ma passa sto pezzo. Oh, Dio mio, da comunque è strano. Dai, godete visto pezzo italianissimo. Dopo parliamo anche di questo. Dai. Resto solo e conto i passi, calo il cappello sugli occhi bassi, cammino aspetto che il vento e la pioggia passi, scarpe sporche sollevano schizzi e sassi, mi chiedo che pensi e come lassù te la passi. Queste gocce che mi sfiorano sembrano lacrime, cavano giù riflessi blu sopra l'Adige, pozze che rifletto la mia immagine stanca, non dica Dio che fa da beat per il tuono che adesso canta. Calze bagnate ad ogni splash, mentre un lampo fa flash, shadow click, foto nuove per Zesh, mentre gli alberi si muovono e si piegano e le foglie sono navi impazzite che dopo annegano. Il cielo è scuro ma a me piace e piange sopravvinti e vincitori che sperano nella pace. Occhi persi come M e sogni stropicciati del colore delle stelle. Scendi su di me, dopo fuori via, portami con te, voglio andare via. Ogni goccia cade giù come un nuovo seme, quel che è stato Memo il passato se lo tiene bene. Voglio andare via, portami con te quando voli via. Ogni goccia cade giù come un nuovo seme, quel che è stato Memo il passato se lo tiene bene. È come Gene Kelly singing in the rain, hey. Faccia bagnata senza ombrello neck way, hey. Se la senti cade giù e debriefica, pazza sensazione magnifica. Lavami così perdono i miei peccati, fa che tutti gli incubi siano cancellati. Ti sento sulle mani che scorri, lascio scia come vene, dicendomi all'orecchio che adesso va tutto bene. E c'è chi scappa, io ti aspetto a braccia aperte, sciogli il grigio poi porta da bere al verde. Strade deserte sotto un bel porticato, c'è un cane che mi osserva passare tutto inzuppato. E poi mi fissa fermo lì e non si muove, chissà da dove vieni e qual è il tuo nome. Sembri saperlo anche tu come, a volte qua si vince, a volte si perde e a volte piove. Comunque un mio amico diceva sempre, questo è un gioco molto semplice. Qualche volta si vince, qualche volta si perde, ma qualche volta può piovere. Prova a rifletterci un po'. Scendi su di me, dopo fuori via, portami con te, voglio andare via. Ogni goccia cade giù come un nuovo seme, quel che è stato Memo il passato se lo tiene bene. Voglio andare via, portami con te quando voli via. ogni goccia cade giù come un nuovo seme. Quel che è stato è stato, e poi passato se lo tieni. Eccoci qua su Radio Wombat, questi erano Zampa e Jack the Smoker, nel caso non l'aveste capito. Mi piace un sacco sto pezzo, sapete? Mi piace veramente tanto. Non sono allineato col microfono, giocate sta storia. No, infatti, secondo me, ora, fatecelo sapere sulla nostra pagina. Io parto a dire le cose, poi però non mi riesce. Fatecelo sapere sulla nostra pagina Facebook, se si sente bene Mars durante le puntate. La nostra pagina Facebook di Sussiane. Ora... cominciamo a scherzare di brutto. Sulla pagina, dai. C'era un accenno all'ultima traccia che manderemo in puntata, in questo pezzo. Un piccolo accenno, chi vuole capire capisca. Non lo capire, dai. Ehi, face. Vabbè, questa era Cade Giù di Zampa e Jack, da Solo per Resistere del 2006. Zampini, l'avete già sentito come featuring la scorsa volta. Ha cominciato nel 96, Osteria Lirica l'avrete sentito, Gorilla Guerriglia nel 2001. Vabbè, non voglio dire niente, non voglio dire niente, perché stiamo tirando due tempi, mi sa. Quindi stiamo accelerando un attimino. Sì, dobbiamo andare veloci perché ci perdiamo in chiacchiere idiote, ci perdonerete, però idiote. Compensiamo. No, in chiacchiere idiote perché parliamo di cose effettivamente che non hanno senso, però vogliamo divertirvi, noi lo facciamo per voi, siamo a vostra disposizione, sempre e comunque. Idioti di quel che siamo in realtà. Molto meno idioti di quello che siamo in realtà, noi in realtà siamo veramente stupidi. Ci senti dall'esterno, ma ci senti? Vabbè, adesso passiamo al penultimo pezzo della puntata. Eh sì, passiamo... un pezzo che ha un disco dalla copertina molto notturna e... è vero. Beh, il pezzo è Night and Day di The God Fahim e Mac Homie, no. Yeah, man. You know what I'm saying, man? This is all my people, man, living in the struggle. Motherfucking third world and shit like that, you know what I'm saying? All across the globe and shit, man. They try and stink us and shit, man. That shit ain't going down, no. Wrong for that. Check it. I let the music and time speak. A rose that grew through concrete. The consequence of letting your mind speak. I love your measurements. Your code still had to be heaven sent. Oh, 16 shots, benevolent. Putting niggas with the worms. As this black moon turns, my revolver spins from another bullet fired at corrupt politics. It's no tolerance. Exchanging gunfire with the ugly opposites. I'm a lone wanderer in the pursuit of happiness. Smoke weed with my niggas, so pass the pip to the right. I keep the pistol hold tight just to make it past the scary nights. Baby, I love you, baby. I wanna be with you night and day. Baby, I love you every day. I wanna be with you night and day, every day. It's many stages and levels to life. I gotta keep pushing what was stared in the heights. In any pressure of life, feeling crazy, I might. Demise on every corner, trying to walk to the light. Yo, daily I feel worse. Is the rain just a cleanse or a curse? Yo, all my niggas had to get murked. I step my feet on hot sand. Deep waters up in this wasteland. The streets ain't never been safe, fam. I slide away from backbiters. They want your flesh like a vampire. Associated with liars. Can't fuck with you niggas, I'm too tired. And when my dust hit the fire, put voodoo on them niggas prior. The ghetto took a piece of my heart. Heavy metal fire on the curb when it's dark. I see a lot of candles and things by the park. I need an L, I got a spark. Baby, I love you every day. I wanna be with you now. with you night and day. Bentornati. Scusate, eravamo in quanto era notturno. Quanto era notturno questo pezzo? Mi piace poter essere sincero. Ma perché essere sinceri? Sì, è bello. Perché la copertina è notturna, perché questo pezzo dice night and day, I wanna be with you night and day. Voglio stare con te sia la notte che il giorno, tutti i giorni, every day. Un pezzo molto sentimentale prodotto da Dagad Fahim. Tra l'altro prodotto benissimo, io lacrimo. Quando, e non nel senso che mi lacrima l'occhio, ma nel senso che viene da piangere quando sento questo pezzo. Sappiamo molto poco. Sì, sì, e tra l'altro è molto difficile trovare notizie. Cioè, abbiamo passato giornate a cercare notizie su Dagad Fahim e si trova molto poco, io veramente molto poco. Ho trovato una sua intervista dove ogni frase la finiva con "you know what I'm saying". Cioè, e c'era scritto sì, proprio sì, "you il know giornalista what I'm saying". Ha riscritto, alla fine di ogni frase faceva la domanda e poi alla fine di ogni frase "you know what I'm saying", "you know what I'm saying". Esatto. Il disco si chiama Dreams of Medina, motivo per cui Dream of Medina 2. 2, è vero, perché c'è anche l'uno. E motivo per cui io in realtà inizialmente pensavo che lui fosse di quella città, poi invece ho scoperto soltanto che probabilmente, cioè, c'è stato in viaggio. E infatti la copertina del disco è proprio quella città lì di notte. Ci tengo molto a sottolineare che è di notte. Il pezzo si chiama anche però. Sì, il disco si chiama Dreams, effettivamente. I sogni quando gli fai. Vabbè. Sempre a contraddirmi in questo posto, mamma mia. Sì, oggi è giornata oggi febbre. Contraddico anche voi che mi state ascoltando. Non va bene. Sì, abbiamo appena schiacciato un dito su una scrivania e ci siamo fatti molto male. Passiamo all'ultimo pezzo che manderemo, che è un pezzo che in confronto scusate, tutto quello che abbiamo passato finora non è niente. Dobbiamo chiudere, quindi il pezzo che ci ha cresciuto, il pezzo che tutti abbiamo sentito almeno una volta. Allora, parliamo del pezzo, dico due cose e poi chiudiamo. Il pezzo si intitola Navigherò la notte e riassume tutto quello che abbiamo messo in questa puntata, questa navigata notturna che abbiamo fatto insieme fino a quest'ultimo pezzo. Vuoi dire l'artista? E l'artista, ragazzi, è Neffa. Vuoi dire il featuring? Vogliamo dire il featuring al Castellana. Il disco? Vogliamo dire il disco al 107 elementi. Siamo nel 98, siamo in un periodo d'oro, siamo con Neffa, mano a mano con Neffa che ci porta in un viaggio incredibile, in questa navigata incredibile nella notte. E su Neffa potremmo dire 10 miliardi di cose, 20 miliardi, 30 miliardi di cose, ma staremo molto zitti perché ce la dobbiamo tenere. Tra l'altro è molto tardi, dobbiamo chiudere la puntata e quindi staremo molto zitti. Dai, ma tanto Neffa lo conoscete, sì, lo sapete. SXM, Messaggeri, tutto bello, c'erano 7 elementi, bla bla bla. Bla bla bla, ehi bla bla bla. Sì, bla bla bla. Neffa, ragazzi. Pezzo, prima di entrare in 107 elementi, era la colonna sonora di Torino Boy. Insieme a Nella luce delle 6, versione originale, non e la luce delle 6. Prima o poi passeremo. Sì, ma la passiamo 107 elementi, ce lo dividiamo puntata per puntata, una traccia a puntata, ve la sentite. Ci facciamo appunto prendere in collo da Neff e portare in tutta la vita con lui per sempre. Premi 1 se non sopporti quando parlano sopra la voce di Mars. Premi 2 se non sopporti quando parlano sopra la voce di Mars. Scusa. No, ho finito. Andiamo, ascoltiamoci questa cosa bellissima. Salutiamo perché abbiamo finito la puntata. Allora, ci vediamo, ci sentiamo, che è bellissimo da dire. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre qua su Radio Wombat. Scusiamo per giovedì scorso che non ci avete sentito. Sì, purtroppo abbiamo avuto dei problemi a mandare in onda la diretta, però comunque ci trovate sempre sul podcast, sul sito, su Facebook, Onda Compiuta. Vi ricordiamo che andiamo in onda alle 4:30, abbiamo una replica il sabato alle 19, una replica il lunedì alle 15. Quindi insomma ci sentirete per forza prima o poi, non vi preoccupate. Sì, infatti, adesso godetevi Nella luce delle 6, no, luce delle 6. Ehi, Navigherò la notte. Stavo parlando di quello prima. Buon ascolto. Ciao Wombat. Ciao Rapposi. We'll be right back. mia mente vaga, ma chi non passa nada. Notte di pensieri, io sono a giro, faccio il turno come il taxi driver Bob De Niro. È un'illusione che c'era, ma sta svanendo dentro la sfera. Io vedo un'era che mo sta finendo, accendo, mi fumo l'ennesima siga, pronto di fisso a lottare, fanculo la sfiga, l'invidia. Tra guerra e pace come Tolstoi, la mia pena mi tiene in ballo tipo Bolshoi, ostile Macarena. Guarda la scena, trash a catena, chi dice stima e ti lama, nella schiena è una iena. Davanti ai miei occhi il mondo sfila, tema da un film per Babilonia versione 2000. Per ogni debito sto pagando, clima isterico, intorno ma ancora sto cercando. Lasciatemi stare, guardavo le navi passare. Si può salpare se stanotte il mare, tentare pure se è difficile e navigare. Queste città come l'internet, nel regno del possibile, reale o immaginario, quotidiano, scenario italiano. Da Catania fino a Milano, dalla finestra tu forse vedrai un tipo strano che arriva, sta passando tipo videoclip. Dentro la testa una sigla e fa così. Pensando al destino che mi ha portato fino a qui, nei posti dove ai tempi me ne stavo con i miei guaglioni, sono rimasti solo palazzi e lampioni, ma qui c'erano discussioni e le canzoni, d'estate fumavo e poi cercavo le costellazioni. Sono uscito e non mi troverai, baby. Andrà a dormire oppure aspetterai, giocando ai videogames, fumando un paio di Marlboro Lights, già sai. Adesso io sono fuori, mi andava di stare così, ascoltare nel buio i rumori. La notte porta consiglio, specie se a volte malate, giornate portano scompiglio. E notte alte sono sveglio, come dentro la canzone, voglia di un guaglione, di trattarsi meglio, non sbaglio. Scivolare giù, quando si conosce il fondo, vi è più. Già da mo gliel'ho data su, e resto 100% spinto, c'ho da fare, definizione stile zero pare. E mo lo sai. Va così, per i rapper sei lì, c'è sta così.